mi macchina anche un'antenna molto molto piccola adesso, giusto per fare delle prove, cambio. Ma poi io sono qua alle Bufanga, ti sento benissimo. Ascoltami, se vuoi mettere l'antenna del pezzo, io ti consiglio un'antenna leggera, o la TP della Sirio o quella della Midland, che sono uguali. La isoli bene, vanno alla grande, non ti devi scaipettare con antenne grosse e pompano parecchio. Devi mettere un'antenna da falcone, guarda, consiglio, comprati la pupera, consiglio. Ho capito bene, quindi da balcone o Sirio oppure mi stavi dicendo? O la LEM. Ok, K. K, quelle grandi non prendere quelle piccole perché sono scorrette. Ok, ok. Capito. O la LEM, la boomerang LEM o quella della Sirio grande. Perché sono le migliori antenne da balcone. Molto bene, ma si trovano su internet oppure qui, chi c'è qui a Sassari, Fuzzaro, chi c'è che le vende? Su internet la trovi. Ok, K. È un po' ti sto perdendo, però insomma mi arrivi ancora abbastanza comprensibile, dai. K, K. Se vuoi qualcosa da stesso, consiglio, o la TP della Sirio, o la Midland, ok, senz'altro, senz'altro, adesso mi do una controllata su internet. E non ti devi fare un culo. Eh sì, qualcosa di non troppo ingombrante, perché mettendole in balcone chiaramente bisogna avere delle cose un po' limitate in grandezza. Ci sentiamo le prossime che devo staccare. Ricordami, io sono Fernando, ricordami il tuo nominativo così magari ci risentiamo. Antonio Bombolo. Ok, è stato un piacere, Antonio Bombolo, un abbraccione, super saluti, ciao. Ciao, che la risentiamo. Certo che si sente bene, ma anche io mi sono più vecchio di un burboncino a esse, insomma. Audi. A tenere le buttanga di chi da musicia, la musicudi. A c'è quella salettina che è lì, che è la strada. Poi a Inghibi, che da mo ti buttava a Luperrovic, che andava a correre a Inghibi, mi stavo... Ora è chi lo fa rompere? Sì, per sempre beh. E allora? Sì, si chiama la frasile di Russia, è morto. Il Vespa è chi mi ha tutto, a tutto girindo. Ehi, no, fa vedi. Alla fase, la sua. Ehi, a Gaffa Rogero. Com'è la temperatura piuttosto fuori lì? Umido, freddo c'è. Andava, allora esci di Paramo e ci va. Esci di Paramo, avani, si può fare giravista, margherita. E da lui di buone di asparagi, so. Buona ridda, eh. Ah no. E via con il danza del fuoco. Arrutti tutto. Ehi, chi sa è fuoco a sgombo? Sarà così da 40 anni che sa strada, così me non ne mai accorto. Ehi, è più di uno ha scivolato, scendendo o salendo? Questo fa un pezzo di finale da gromba. Cavoli, ehi, è imbatti un vecchio in linea d'aria e... Sembra libera anche lui. Pare che sento per vinti, sì, no? A tutto il tempo arrivo, con la 68 mi senta nuda attaccato, giù il microfono MB4, beh. Ma tutto lo sono saluto, no? Non gala. Tu sono visti quando io mi sono fatto finale. Ah, buono, non lo so, con una berra, la tariffa era ruggiamente, tu rendi. Tu, stavo parlando, tutta l'ora mai di subito tutti gli abbi. E non lo so cosa gli è successo, la sera c'è molto caffè giapponese, un caffè cinese, un vedrento, attaccato alla cartella. Pino, minimo. Ha fatto a casa mortale quando è fuori di gente. No, ce l'hanno troppo dicendo, qui l'hanno edificio, quindi... a parte originale o qualche capizio, no? Cioè, che hanno solo un po' di tempo fermo, che stanno per i tratti, ma neanche c'è un vizio di attecuzzi compreso. E infatti, magari come lo stavo usando, scaldando, raffreddando, sarà fatto più caffè diodo, caffè finale, caffè transito, caffè navicella spaziale. Io non mi metto come operare queste cose, lo sai? E ci sono radio turche, però magari il problema è che già si possono recuperare, aggiustare, usare papiti, batterati, se no me. Ti devo buscare nel gol mio, con un ragno, e vado, non ti vado, una stelletta ti fai. No, che già ti fa contare. No, non dico io. Comunque, cinghiale non se ne vede le tracce di cinghiale in giro. Già, da vittorio bucrapi già. chiarissimo una lingua e la balsetta fatta a russo e rigosi di tutti gli essi, mamma mia. Scappa. Non fare le occhi, alla posizione. E a me non ti fai un coso panoramico, ma il mare è buono, Non fare di sì, non fare. Allora su tutti i mari mi spendi voi, poi spendi il rischio se caemo, perché la giornata già sembra un po' soleggiata. Ma come ti arrivo il segnale da qua? A bomba! Cappa! Sono qua quasi alla fine della putibuta. Forte e chiaro! Cappa! Avanti, fa un giro a Platamona, divi una lanciata da fretta, mara! E si rifà un del faticano. Ehi, già si può camminare, tutti i bici si può andare. Da voi a metà da pulire la benzina, però. No, sta tutto una fuori, qua. Attacca la turbina del villo. Sono quasi arrivato a Platamona, sono. Ma sempre vero, così di aerei, da nei due punti con la vanera aerei, va a farsi lì. Farsi sì, andiamo a rivolta. Cosa c'è anche, il maneggio dei cavalli o il maneggio dei croccato del bar? Andiamo a rivolta, non ve la fate no. Cazzo sale, non hai visto quando passava nei il litorale, con gli si... Lungo il papo, come si chiama nei saere. La sociale di gare di Gabuia. Il motore di un maggiolino va da lì. Col cardanazzo barugoso di lì. Oh, un chiamare, non vuoi dar fatto. Chi si Piper, così mi pare di chiamare. L'uomo male, ammaraggio! Baraccaduta che ha finito la benzina il motore del maggiorino che è il passato di giri. Scappa, ideale scappa. Grazie, vedi tutti quanti spigole dall'alto, evidenti, si vedi, un mischia è. Però come sei tu giù, no, meglio che lo fare giù del comandante se fosse giù e usci. Ma quale gioco, ma da scappa, ma praticamente anche io sono arrivato in Alghero con il caere a Eli e arriviano a Eli e dai Eli da voi baciare loro ma fatti sì. No, poi io sono qua a Platamona, sto quasi alla rotonda. Ora ti sento, fatto fanno. Come fatto fanno? Forse qualche altro. E allora, da voi devo essere anche settimana a Bassigeni oggi, viene pure la goccia, un raggio gamma. No, perché lì altri pubblici barbuni, già ci deve essere qualche coppietta, Bassigeni, Gattù, che bella giornata oggi domenica. Magari buona amica che bancarella di Sigaramelli, Bulumi, di Simenzi, di Faccio il Bondo, ma sono con me che non è vero. Non lo so. Ui, comunque se vedi due ragazze con gli occhiali da sole, le accosteggi in macchina, abbassi il finestrino e dici sono da sole, siete da sole, e quindi dici no, sono da vista. No, quindi ti vai là, dici di latte milk. Latte milk. Una bastarda di vista. Appa, già una vendita, appa. Uia, fischia, fale un coso la cucaraccia, paravaravaravarava. Ma non mi sarà uscita la risù, sta mi hai visto. Uia, quello mio, venerina bella mia. Bravo. Anche in giro gioca Minelli, Bassigeni. Ehi, ha bisogno andare via. Andava, e ieri eri a Platamona e non mi richiamavi. qua io. No, ero in casa io. Io mi sono bucato e mi ho lasciato il telefonino fuori nell'androne, capito, nel salone. E quindi ho avuto un altro cibo. Ah, come si trova questo? Poi me ne sono dimenticato a chiamare di nuovo. E niente, va bene, là. Cazzo, però non si dà già nel freddo maledetto, qua. Che fatti, che non so che mano. Vabbè, adesso da fare mai. Sì, sì, no, ma anche da voi me li sono dimenticato, che ero un po' sopra sempre a durori, che si ritiro freddo, sopra sempre a durori anche, quindi non lo so, guarda. Sto cercando di tenere un po' di concentrazione a tutti i nomi, come se fa la cazzardi. Però va bene, anche quelli ci stanno perché mi trovo e non mi seguo di duri, e sopra i sentieri, già finendo gli storici, gli autoretti. E niente, è tutto qua. Papà, non so se mi sono caduto, non so. Ah, se vuoi sulla pelle, e allora, due lì maneggiati, due alleggiati e quattro cariati. No, mi chiedi. A me gli stessi, mi gozzi, me l'ha fatto la mia gommone. Una persona sbaruzza, non c'è una brava persona. E certo che sì, certo che sì. E vedrai che c'è una ragazza, una grande attività, no? Mamma. Ma sei? La costanera, faccio, c'è. E allora, belle performanti. Ma conosci la stessa? No, no, ci sono qui, guarda. Adesso mi hanno sparato la frutta nera, questo mi è tutto un po' fatto. E allora usala. Ma non so cosa sente. Dai, allora già va bene, tu attacca sempre e fatti sempre. Qui arrivi bene. Ma tu sei arrivato in chi, vedo come è, mamma? Ehi, voglio dire, ti sento bene. Sì, segnale qualcosa. È il segnale, io voglio che si mettono un po' strano, però devo essere l'ombra. È buono. Ecco bene. E via. E gente, Mari e Amulio, si ne vede. Mari, no, non è stato con Amulio. No, è tipo qualche palloncino giù, qualche segnale, non si vede nulla. Cudi i bombetti dando, cudi i bombetti correre di più. Dopo ti tu, io se no non vedrai una tua parlante con un cane a Maggenni, rubo una volume alto, e il BVG. Ah, cazzo, ma cosa tutti gli altri dici di che a te fare il governo, mamma mia, che tu davano, bella mia, i fuchi devi farli arrivare, ui, cosa arrivi via, gabellina mia, gabellina mia, e allora, io sono te la fuso lì, però era poco, faceva il video brilli. Ma tu sei un no, il suo che ha fatto un video in macchina, ma se ne esci da una vista che conosceva, lei ha detto, dai capelli, la sua cuffia, l'ha detto, le sue gambe, gli ha detto che la vuole a buon soldo. La vuole ha fatto un video che era, mi sa, che era sopra me una vista, che era dato qualcosa, e mi dice, e cosa fa fa, cosa fa fa? Siete copiata o tanto? I video facevano schifuzzi al YouTube, ma sì, sugli appunti, magari su tutti a uno che si chiama, non è che si chiama i pagani. Allora, come si è accorto, come c'è la burraccia di Giassa, rimane vittima di Dio della burraccia di Giassa.

tutti i monifani, tutti i monifani di soli, tutti i carriere, da noi, noi città di altri posti, siamo andati a questo numeretto, di cui vega, me una mi finire il cielo. Allora, recitare, tutti i canti cattivati e puttane, tutti i ragazzi e puttane recitati, Vittorio e dottoressa. Sì, tanto Mascarella vengono di Baffurana e di una regionale. Più pazienti vasi ne si di una regione e l'altro, vedi tutti scegliono, polvere di stelle lì, polvere di stelle là, tanto che hanno tutti i laboratori e lì, tanto i suoi nobi, ma con cannone non vedi che si acciappi a fumarsi, pare da 4 minuti. Sarà maniero, avanti, sì, poi vanno strumenti, roba elettronica di nuova tecnologia, l'avanguardia. E allora va, mi pulso e mi faccio un fumoggio. e quali? Comunque sono le tractor 12, no, cioè cilindri, magari erano i cilindri. E allora cazzo tu non dici? Si a cazzo dopo? Sani, chi si deve, chi si... o chi sta per me la mia burpa nuda. E la qua? La signora la grappa a lei. E allora sotto si chiama Drafale, la buca sacca di nuovo gioco che si chiama Bartuvizio. Ma cosa li vede a Drafale? Non si va a mettere giù. Sì, ma è personaggio, no? No, si non lo sai. Dove c'è che era amico di me di capelli? C'era pure la canzone, Drafale, Drafale. C'era in due le canzoni, ma in quale cosa c'era? Il CD di Dio Folk Latte Dolce, oppure avevano altri titoli? E poi me lo ricordo. E dove c'erano le canzoni, Cardarina, tutte fuggite, la murata della gentiera, Sasso Luguenza, buttare giù a canna, erano belle quelle canzoni. Qui già ricanta ancora. E la radio del Golfo Limone, insomma, radio del Golfo Porto Torre. A me mi fa del ritmo da fraglia, eh. Ora mi sta molto in casa, dove sono andato? E allora, sempre a Bosa, tutti, ma è pure il gambo. Non sono le fraglia, eh. Oh, ma è tutto duri. Si parla di no, eh. Ti fermi a vedere se vuoi un PD, se io posso la pelosa, cosa è? La pezza. Attenzione, autogradimento, ascoltate qua. Venite a riparare il folletto qua, viale delle vigne. Mamma mia, cazzo, quanto fa ridere. Da un periodo stati al passi, ma mi sono rimandato, girato. Sì, al passi, ma io sono discoteca di me, già lo so già. E non c'è stati a venire in casino un gigante che si dice mangiare. Ma cazzo, bisogna fare un culo. Altro gradimento, che dice le gigante di questa musica questa. Un saluto alla mia amica Tiziana, che è ascolto. Ora le notizie stampa! Una volta un po' di attenzione, avevo telefonato, ma non è che ti sono scusato. Vai, guardi, vai, le fatture a te! Cazzo, la vedi disintegrando la vedi, l'avete fatto marciare la fantasia, romanzà! No, vai, cacca, vai! Mi chiedi, vai, vai, e cacca la strada, vai! Ma che va troppo a ridere. Alto gradimento, buongiorno la Animal qua, ragazzi in partenza, stiamo sorpando le ancore. Ma sì, ma non c'era un altro quando diceva Allegre Goro, Allegre Goro. Ma sì, se posso il radio, finalmente. Sazia, qui da Porto Torres, Allegre Goro a tutti. Però non so chi è il presentatore, se è sempre lo stesso. Però no, è anche il presidente del Porto. Sì, Radio del Golfo Udile, le musica da Salisa, e musica sarda, venete. No, no, Radio del Golfo, no. Radio Nova, Radio Nova, Antu. A questa radio mi sei scusata, ma non si capisce questa cosa. E magari è un figlio, non era attaccato a me, più o meno. Ma poi quando mi fermo la fai tu che mi ha sottile pigliato. Non è niente, Antu, qualche vibrazione. Mi allontano un attimo. Magari riprendo dopo se ci sei ancora, se coincidono gli orari, non fa una cosa anche. Sto andando a casa, sto capendo. anch'io.